non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. La nostra trasmissione ascoltando anche il terzo intervento della professoressa Maria Grazia Ferraris, che ci racconta l'altro rodario, rodario che parla con parole da bambini ma per farsi ascoltare dagli adulti. Sentiamo. Apparentemente ironico, apparentemente giocoso, in realtà un rodari impegnato anche quando sembra scherzare. E sa scherzare anche quando parla e dice delle cose umili, per così dire. Pensate a tutte le favole minime che ha pubblicato su Paese Sera, ma che poi ha raccolto in quel bellissimo libro che è Il cane di Magonza. C'è dietro, sembrano dei piccoli proverbi e piacciono molto a una cultura popolare, ovviamente, ma dietro c'è una lettura del libro, delle favole di Gadda, c'è la lettura delle scorciatoie e raccontini di Saba, c'è la lettura di Malerba, c'è la lettura di Adorno, delle minime moralia di Adorno. Vi do due esempi di queste specie di raccontini minimi che lui scrive, che fanno ridere, per così dire, tra virgolette. Ve ne leggo solo due, o tre al massimo. Un pidocchio, dopo aver passato l'inverno sulla testa di un celeberrimo scienziato, confidava agli amici: niente di speciale, proprio un posto come gli altri. Le teste fini non bisogna lasciarle giudicare ai pidocchi. Oppure, una marionetta scappò dal teatrino per amore di libertà, però si era dimenticata di tagliarsi il filo che le cresceva in testa e non capitò mai in un posto dove non ci fosse qualcuno pronto a farla ballare a suo piacimento. Si può scappare lontanissimo, è facile, ma più difficile è tagliare veramente la corda. Oppure, non c'è più entusiasmo, borbottava il moralista. Non c'è più fede, siamo tutti stanchi, stufi, quasi morti. A un palmo di naso, su un ramo, a febbraio, c'erano le prime gemme. La vita ha risorse che i moralisti non riconoscono perché hanno rotto i rapporti diplomatici. Ecco, vedete come dietro questi sorridenti proverbi, modi di dire, c'è il grosso tema morale di Rodari raccontato agli adulti. E poi c'è tutto il tema della vecchiaia, oltre che il tema della creatività. Beh, intanto il tema della creatività è il tema che lui sviluppa magistralmente nella sua opera teorica, che noi conosciamo tutti, ma lo sviluppa anche in funzione degli adulti. Chi l'ha detto che gli adulti e i vecchi siano incapaci di creatività? Ma chi l'ha detto? E verso la fine della sua vita lui scriverà proprio una piccola poesiola dedicata ai vecchi e alla loro creatività. È intitolata L'orecchio acerbo. Splendida, sentitela. Un giorno, sul diretto Capranica Viterbo, vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. Non era tanto giovane, anzi era maturato tutto, tranne l'orecchio, che acerbo era restato. Cambiai subito posto per essergli vicino e poter osservare il fenomeno per benino. Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età, di quell'orecchio verde, che cosa ne fa? Rispose gentilmente, dica pure che sono vecchio. Di giovane mi è rimasto solo questo orecchio. È un orecchio bambino e mi serve per capire le cose che i grandi non stanno più a sentire. Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dicono cose che a un orecchio maturo sembrano misteriose. Così disse il Signore con un orecchio acerbo su quel giorno, sul diretto, Capranica, Viterbo. Anche gli adulti, anche i vecchi hanno qualche cosa di creativo. Non sempre sono così sorridenti. Pensate a quell'opera Principe sulla vecchiaia che è il barone Lamberto e che viene spacciata come il romanzo scritto, l'ultima opera mandata ufficialmente all'editore. Quindi viene spacciata per opera adatta a una scuola media. Il contenuto del barone Lamberto è la vecchiaia, è la malattia e poi il modo di trattare questa operazione che sta compiendo di questo splendido romanzo è anche possibilmente adatto ai bambini, ma questo è un difetto della scuola che ha preso solo le tecniche rodariane e ha perso di vista il messaggio e quindi ne ha perso di vista la complessità. Il barone Lamberto addirittura costruisce un romanzo alla rovescia, è un romanzo che parte dalla vecchiaia per ritornare indietro, è un romanzo che mette in discussione tutti i luoghi comuni, è un romanzo che include la sua storia personale, le 24 malattie del barone Lamberto che corrispondono alla fine, alla morte di Rodari stesso, che riprendono il suo paese, l'isola di San Giulio, che chiudono il cerchio, è un romanzo che ha delle letture infinite ed è un romanzo per adulti e chi non l'avesse letto vi prego andatevelo a rileggere, non solo vi divertirete ma veramente capirete qual è il messaggio autentico di Rodari. E poi ci sono anche i temi tristi sulla vecchiaia, sì, ci sono anche quelli tristi, perché Rodari era un malinconico fondamentalmente, sto per finire, fondamentalmente un malinconico. Pensate a quando scrive per la rivista Il Caffè, quindi siamo a Roma ed è un tentativo di sperimentazione, e scrive una poesia intitolata Il Nonno. E davvero fa venire i brividi, sentitelo. È triste diventare piccoli in questo mondo, tra gli sguardi ironici della famiglia. Per loro è uno scherzo, la cosa li mette di buon umore, si fingono inteneriti. A che serve protestare? Posso soltanto chiudere gli occhi per non mostrare una disperazione di cui riderebbero con indulgenza. Posso a ciascuno voltare le minuscole spalle e sono troppo piccolo per esigere definizione, troppo buffo per continuare a farmi chiamare dottore dalla donna Ore. Tutto si è svolto in poche stagioni. Ancora qualche bimestre e sarà tanto facile dimenticarmi. Tristissima poesia. La vecchiaia come sofferenza, la vecchiaia come isolamento. È lo stesso tema che svolgerà in Vado via coi gatti, quella famosa novella in cui in modo ironico, divertito, il vecchio signore, mai più ascoltato in casa, decide di diventare anche lui un gatto. Ecco, ed è un tema che Rodari sentirà in un modo drammatico. Io che sono fuori tempo completamente perché mi ha preso il desiderio proprio di farvi sentire queste cose, vorrei chiudere questo mio intervento con due poesie che dicono, piccole, brevissime, che dicono tutta la profondità di Rodari, tutto il desiderio di essere ascoltato da un pubblico che davvero lo sapesse leggere. Una in cui prova a spiegarci il senso della vita. L'uomo è un'invenzione, è nato ieri morirà domani. È vero il dolore che bisogna cancellare, vera la morte che bisogna morire, vero l'amore che bisogna inventare. E quel verbo, l'amore che bisogna inventare, è davvero uno dei verbi più potenti che Rodari potesse utilizzare. Dice anche le sue delusioni, dice che cosa ha rappresentato per lui di fatica la vita stessa, dice quello che forse non avrebbe mai voluto dire anche dal punto di vista delle delusioni che lui ha avuto. L'ultima è una poesia magnifica che penso che qualunque poeta famoso la firmerebbe volentieri. Ho rubato una rosa al padrone di casa. La primavera fa l'uomo ladro. La primavera è la finestra ventosa e l'aria di mille amori invasa. La mia parte di mattina ho respirato alla finestra della primavera. L'ho pagato l'affitto, ma la rosa l'ho rubata. Un signore di Scandicci buttava le castagne, buttava le castagne e mangiava di ricci. Un suo amico di La Strasigna buttava via i pinoli, buttava via i pinoli e mangiava la pigna. Tanta gente non lo sa, non ci pensa e non si brucia la vita. Cugino in quel vibrato, suo cugino in quel vibrato, buttava il cioccolato, buttava il cioccolato e mangiava la carta, suo cugino in quel vibrato. Un parente di Filine, un parente di Filine, buttava via le rose, buttava via le rose e adorava le spine. Buttava i mari pesci, buttava i mari pesci e mangiava le lenze. Un compare di Barberino, mangiava il bicchiere, mangiava il bicchiere. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balun. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare